Con 500 milioni di euro in meno significa con i bilanci già consolidati, molti già approvati e qualcuno ancora in via di approvazione, con ulteriore taglio di questo, cioè ci sono due vie, o fare dichiarare il default o dall'altro lato aumentare la tassazione locale. Mi pare che già siamo ad un livello quasi limite, i cittadini non possono pensare che i comuni aumentano la tassazione locale, e le province aumentano la tassazione, le regioni aumentano tutte le tasse a livello regionale, quindi è chiaro che sarebbe il cittadino doppiamente penalizzato. Però le scuole non dipendono tutte da voi. No, le scuole, tutte le scuole superiori dipendono dalle province, ma è il stesso discorso diranno i comuni, non è un discorso tra comuni e province. Fra l'altro questo meccanismo veramente penalizza gli enti virtuosi.